Nel 1492 il genovese Cristoforo Colombo scoprì con la sua Santa Maria il Nuovo Mondo. Battezzò la prima isola su cui sbarcò con il nome di San Salvador, l'isola del Santissimo Salvatore. Era l'inizio di una missione impareggiabile, certo dagli effetti non sempre salutari, ma che ha comunque portato all'evangelizzazione dell'intero continente americano. In Africa, invece, l'Islam, fino al XIX secolo, ha sbarrato la strada alla penetrazione dei missionari cristiani nel nord e nel nord-est del continente. Anche in India e in Cina, indubbiamente i popoli numericamente più importanti della terra, l'evangelizzazione non ha avuto grande successo. Da che cosa è dipeso? Ha ragione. In queste due grandi aree culturali, l'India e la Cina, il cristianesimo ha mietuto successi solo parziali e provvisori. Nel V-VI secolo la penetrazione della missione nestoriana si è spinta fino all'India e alla Cina, lasciando tracce e forse anche influssi che hanno contribuito a plasmare il buddismo, ma poi si è rapidamente dissolta. Perché dunque? La mia impressione, che può anche essere sbagliata, e che le ragioni di questo mancato radicamento vadano ricercate nell'esistenza in queste aree di culture molto raffinate. Mentre in Africa le religioni tribali, nel momento dell'impatto con le grandi civiltà, si sono interiormente aperte al nuovo, proprio perché sono culture tribali che hanno bisogno di spinte ulteriori per continuare ad evolversi, in India e in Cina ci troviamo di fronte a culture complesse in cui la religione, nazione e ordine sociale, pensiamo ad esempio al sistema delle caste, si sono indissolubilmente intrecciate e giungono a uno spessore spirituale notevole. In India e in Cina si sviluppano filosofie complesse con forti accentuazioni religiose. La conversione al cristianesimo è quindi resa più difficile dalla convinzione che quella sintesi di nazionalità, filosofia, ragione e religiosità in cui quelle culture si esprimono e che si oppone alla penetrazione di elementi esterni abbia raggiunto una forma compiuta e definitiva. Dobbiamo anche aggiungere che le influenze europee, a partire dal XIX secolo, hanno considerevolmente riplasmato la religione indiana. L'induismo che conosciamo grazie a personaggi famosi come Gandhi o Radha Krishna non è più quello originario, permeato com'è da elementi cristiani. Ciò non di meno, il cristianesimo in quanto tale non è riuscito a radicarsi, ma è stato risucchiato dall'induismo, conferendogli nuova linfa e forza rinnovatrice. La Corea è invece un caso particolare. Il messaggio di Cristo è penetrato, anche senza un particolare apporto missionario, direttamente nel cuore degli uomini. Questo come si può spiegare? Un gruppo di persone che avevano studiato in Cina erano entrate in contatto con preti cristiani. L'impulso che avevano ricevuto da questi missionari li spinse a dedicarsi, una volta tornati in patria, allo studio delle Sacre Scritture, e si convinsero che queste erano davvero la parola di Dio e cercarono di metterla in pratica, sempre però con il desiderio di potersi riunire alla Chiesa Universale. Da principio questo non fu loro possibile e dovettero affrontare un lungo periodo di persecuzioni e martirio. Ci troviamo quindi di fronte a uno sviluppo significativo. Da un lato la spinta alla conversione al cristianesimo non era venuta solo da un libro, ma dall'incontro con la Chiesa vivente, e dall'altro però questo primo contatto era sfociato in una ricerca personale, e dall'incontro con la Scrittura era scaturito un processo di conversione che non poteva rimanere circoscritto a riflessioni teoriche, ma che doveva confluire nella comunione con la Chiesa vivente. Possiamo ancora sperare che un continente come l'Asia si converta all'insegnamento di Gesù Cristo o i giochi sono già chiusi? Non penso che dovremmo porre limiti alle speranze. Già vediamo come, grazie agli intellettuali indiani, dei fermenti cristiani siano penetrati nell'induismo. Il numero degli indiani che venerano e amano Cristo è straordinariamente grande e va ben al di là dei cristiani effettivi, per quanto Cristo sia considerato alla stregua di altri portatori di salvezza. Il Giappone si dimostra particolarmente impermeabile al cristianesimo. Ci sono certo scuole cristiane, tradizioni cristiane, ci si sposa volentieri in una chiesa cattolica, ma affidarsi completamente alla fede cristiana contraddice evidentemente la cultura giapponese. La Cina è dominata da una ideologia che si autocomprende come l'unica forza capace di tenere unito quell'immenso paese e di dargli quello slancio che gli consente di svolgere un ruolo di primo piano nel mondo. Ma anche là ci sono dei credenti la cui devozione a Cristo si è dimostrata di eccezionale tempra e anch'essi possono essere considerati un fermento che potrà crescere. Non dobbiamo considerare conclusa la storia. Naturalmente, in grande parte dell'Asia si sono innescate forti spinte difensive rispetto al cristianesimo, considerato come una religione importata dall'esterno. Abbiamo visto l'ostilità che si è sprigionata in India contro il Papa, la messa al bando di concetti come conversione ed evangelizzazione. La reazione è stata straordinaria e proprio per questo lascia trasparire nella virulenza dell'arroccamento difensivo la forza che si attribuisce al cristianesimo. Al momento non è possibile fare prognosi per il futuro, ma non dovremmo concludere con rassegnazione che qui tutti i giochi sono stati fatti. Ciò non di meno, la persecuzione contro i cristiani ha in molti paesi dimensioni drammatiche, senza che l'opinione pubblica occidentale si senta particolarmente turbata. Sì, in molti paesi, in Cina, in Vietnam, nell'intera penisola indocinese. Ora, che questi sviluppi rischiano di prendere piede anche in India, ci rendiamo meglio conto di come la fede possa farsi strada solo se testimoniata con il proprio sangue.